Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Speciale Voci di piccola impresa. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Un saluto da Anna Marino. Oggi parliamo di musica, anche senza sentire le note. Ma a farci ascoltare come con le loro idee anticrisi sono riusciti a fare il salto e guadagnarsi un posto nell'affollato mercato discografico ci sono proprio i temerari imprenditori che hanno osato sfidare le major per fare emergere talenti, band e prodotti musicali grazie al web. Torna alla ribalta il live e le nuove band per farsi conoscere devono poter suonare tanto e ovunque, ma non è facile trovare locali e palcoscenici disponibili. E allora ecco un social network per organizzare concerti in tutto il mondo. Split Gigs, www.splitgigs.com, è nato perché Sam Ronzoni, Michele e Marcello Rosa, bergamaschi classe 80, dopo anni di passione per il basket, si appassionano al mondo della musica e formano una band trovando il cantante tramite un contest online creato appositamente. E poi la band riesce con lo scambio di date a suonare all'estero. E si aggiungono anche al team Matteo Nodari e Bruno Parisi. E partner del progetto sin dall'inizio è H-Farm, www.hfarm.it, l'incubatore di idee con sede a Treviso, con uffici a Londra, Seattle, Mumbai, che aiuta le startup italiane. Sam spiega come da impresa e da band emergente si arriva in ogni parte del mondo. La storia è semplice: noi avevamo una band, eravamo musicisti e come ogni grande idea nasce da una reale necessità, avevamo bisogno di trovare date live dove poter suonare. Di conseguenza abbiamo iniziato a chiedere ad altre band di aprire i concerti in cambio poi di ricambiare il favore. Quindi l'idea è iniziato contattando tramite i canali tradizionali che c'erano allora, quindi MySpace, Facebook e siti, via mail, via telefono, a band non solo italiane ma in Italia come anche all'estero, quindi in Svizzera, in Germania ed Austria, chiedendo appunto tramite mail se potevamo aprire il loro concerto in cambio poi di farli venire in Italia a suonare. L'idea è piaciuta e abbiamo iniziato a suonare appunto in tutti questi paesi, abbiamo fatto una quindicina di date e tutte le band ci dicevano: ma perché non esiste qualcosa di dedicato a questo progetto? E questa è stata la svolta che vi ha portato all'idea di fare per voi qualcosa che valesse anche per gli altri, cioè il fatto di poter mettere a disposizione più possibilità a tutte le band di suonare live. Come? Allora, l'idea è quello di creare un social network innanzitutto gratuito dove ogni band può inserire la propria serata, quindi il proprio concerto, e dare l'opportunità a tutte le altre band che fanno parte del progetto di aprire questa serata, quindi suonare prima delle altre band. In cambio, all'interno del sito c'è la possibilità di andare a richiedere la band stessa di aprire altri concerti, quindi una sorta di mutuo soccorso tra band. Certo, le idee anticrisi sono bellissime, ma l'idea non basta. Come avete fatto voi e come potete suggerire agli altri di fare per fare questo salto? Noi siamo partiti mandando l'idea, quindi una bozza di business plan, se così possiamo chiamarlo, a H-Farm, che è un incubatore di Treviso, di Roncade per la precisione, che ci ha risposto in tempi molto brevi e ci ha invitato nella sua sede, che è una sede alla Google, diciamo così, quindi dove ci sono tantissime realtà di startup che aiutano in diversi modi. Nel nostro caso ci ha messo a disposizione un team di programmatori e di grafici, diciamo, che ci ha aiutato nella prima versione del sito ormai di 2 anni fa. Questo ci ha aiutato non solo dal punto di vista di programmazione, quindi pratico, diciamo, di messa online del progetto, ma attraverso loro siamo riusciti poi anche a capire come deve nascere una startup, quindi in termini di possibilità per venture capital, piuttosto che contest, piuttosto che concorsi, capire da che parte girarci per fare questa cosa. L'incubatore deve, e la definizione è proprio quella, dare invece gli strumenti per poter crescere la startup, quindi indicare le strade migliori, far capire cosa potrebbe essere e quale potrebbe essere la strada giusta per la startup e soprattutto dare visibilità, che è la cosa principale per una startup, quindi attraverso quello che possono essere gli uffici stampa, attraverso quello che possono essere altri canali, permettere alla startup di definirsi anche in modo autonomo e capire che strada prendere. Ed è quello che è successo a noi grazie a H-Farm, cioè H-Farm non è che ci ha pagato per fare un progetto, non ci ha finanziato, ma ci ha dato tutti quegli strumenti che ci hanno permesso poi nell'arco del tempo di capire che cosa dovevamo fare. Di ecco, questo... parliamo allora di risultati. I risultati che sono arrivati, quali sono, quanti si sono rivolti a voi e soprattutto, diciamo, avete sotto mano anche un bel panorama musicale? Sì, i risultati sono prima di tutto che noi abbiamo capito che dovevamo rivolgerci innanzitutto all'Italia, che è un paese che ha una scena musicale molto grande, quindi dovevamo assolutamente puntare su quello. Oltretutto abbiamo capito che chiaramente dovevamo costruire un team, che è la parte più importante, quindi abbiamo più di 7 persone che lavorano nel team, dalla parte grafica alla parte di programmazione alla parte manageriale, diciamo, della gestione delle partnership e quant'altro. Abbiamo rilanciato il sito il 1° aprile in Italia, abbiamo creato una società che segue tutto, appunto la nostra società è di base a Londra, e questo proprio perché comunque l'obiettivo non è quello di legarci solo all'Italia, infatti a ottobre apriremo anche a Londra, in Inghilterra, e in qualche mese, dal 1° aprile, noi abbiamo più di 8.000 utenti sia lato italiano che lato inglese che sono pronti chiaramente a partire. Artisti emergenti Cercasi. Invece di tanti cartelli, un sito, quello di Interludio, www.interludio.com, nato nel 2011 non solo per un'aspirazione artistica, ma soprattutto da verifiche attente sul campo, professionali, concrete, per rispondere ai bisogni e aspettative di migliaia di giovani artisti del campo musicale. Per superare le vecchie logiche di mercato, internet, social network e nuove piattaforme di vendita, Digital Music Store, sono gli ingredienti per l'accessibilità e per creare trampolini ai talenti, mescolati sapientemente da due professionisti della musica e della comunicazione. Fulvio Pisani, musicista e regista da più di 20 anni, consulente musicale di fama, e Vincenzo Basirico, fondatore, direttore creativo e marketing, che spiega l'idea di questo tutor. I giovani ci mettono il talento, loro gli strumenti per lanciarli a 360 gradi. L'esigenza degli artisti è quella di poter arrivare al mercato in maniera nuova e diversa dai modi anacronistici che ci sono da tempo, sia quella di dover per forza incidere una demo musicale, inviarla alle case di discografiche di più o meno importanza, oppure partecipare a provini di talent show. Ecco, noi abbiamo pensato di proporre servizi professionali d'eccellenza ad artisti esordienti che generalmente non hanno la possibilità di accedere a determinati servizi e costruire proprio il personaggio artistico, dalla consulenza immagine alla composizione del brano doc piuttosto che l'arrangiamento, e quindi trasportarli direttamente sul mercato senza intermediari e percependo il 100% di quelli che sono i guadagni derivanti dalle vendite. Voi li aiutate, e qual è il metodo per facilitarli al massimo? Il metodo per facilitarli è quello di vedere il talento che riescono ad esprimere, quindi se è un cantante con grandissime doti vocali, Interludio si occupa di quello che è la composizione di un brano doc, l'arrangiamento, l'incisione, la distribuzione su tutto il pianeta tramite gli store digitali come iTunes, Amazon, dopodiché la costruzione del personaggio artistico, quindi la costruzione proprio del nome, del personaggio in sé, come l'abbigliamento piuttosto che il manierismo, il modo di atteggiarsi. Dopodiché tutto quello che coinvolge il marketing, quindi la costruzione dei social network, delle pagine su social network dedicate all'artista vero e proprio, in modo da fare da collettore a fan in tutto il mondo che si appassionano alla musica dell'esordiente e permettono a lui di poter vendere e vivere grazie alla propria musica. Quindi non più un giudizio calato dall'alto su format tipo talent show o perlomeno o anche su quelli che sono i retaggi delle case discografiche, ma noi consideriamo la diversità di un artista o della musica che lui esprime come una ricchezza insostituibile. Quindi il mercato è pronto ad avere qualsiasi proposta un artista voglia fare nell'ambito musicale e non vogliamo precluderla per ragionamenti marketing o di guadagno. Quindi l'artista ha in Interludio il massimo sogno che può aspirare, cioè una serie di servizi professionali che gli permettono di accedere in maniera seria e credibile al mercato senza intermediari. Come guadagnate voi e come guadagna lui? Noi guadagniamo semplicemente attraverso il servizio, quindi come qualsiasi agenzia di pubblicità, ad esempio, che, a cui si rivolgono grandi aziende che hanno bisogno, ad esempio, di fare del marketing, quindi studiare un'immagine della nuova campagna pubblicitaria. Non per questo l'agenzia di pubblicità riceve certamente delle royalties sulle vendite del prodotto dell'azienda. Quindi noi agiamo esattamente allo stesso modo, noi offriamo un servizio professionale, dopodiché il servizio, dopo che è stato erogato e pagato dall'artista, l'artista riceve tutto quello che è il guadagno derivante dalle vendite. Quindi se il brano o l'album che è stato prodotto riceve 1 milione di download attraverso gli store digitali, a questo punto l'artista guadagnerà l'esatto corrispettivo, senza nessunissima percentuale da corrispondere a interluglio. Ecco, voi avete aggirato ovviamente dei sistemi che erano ormai consolidati negli anni. Come avete fatto a diventare un punto di riferimento per gli artisti? Cioè, voi stessi come siete stati aiutati? Ma noi non siamo stati aiutati, in realtà. Noi abbiamo avuto questa idea nel 2010, che si è concretizzata poi nel 2011, grazie anche a finanziamenti che generalmente gli investitori definiscono con le 3F, quindi Friend, Family e Fools. Quindi abbiamo investito personalmente sull'idea, che secondo noi è il futuro del mercato discografico, per generare una risposta a una domanda che comunque è insita nel mercato da sempre. Tant'è vero che moltissimi talenti negli anni si sono dovuti accontentare di lavori diversi solo perché non hanno avuto una strada per accedere in maniera meritocratica al mercato. Artist Board l'avete creata voi? Artist Board è un'idea nostra, è stata creata completamente all'interno di Interludio ed è stato voluto fortemente a conclusione di quello che è l'iter iniziato in Interludio. Quindi un artista, quando entra in Interludio e sviluppa tutto il suo prodotto, quindi il prodotto musicale, alla fine ha bisogno di uno strumento professionale per poter gestire quello che succede dopo, quindi la comunicazione con i propri fan, quindi quello che è una promozione attraverso la rete. Quindi ci sono le pagine Facebook, Twitter, MySpace, che sono aggiornate direttamente all'interno della pagina Artist Board, piuttosto che la vendita del merchandising. All'interno di Artist Board è possibile addirittura aprire in maniera gratuita un negozio di merchandising dove l'artista può veicolare i propri gadget per fidelizzare ancor più i propri fan. Si chiude qui questa puntata di Voci di Piccola Impresa, Idee Anticrisi. Torneremo con altre storie la domenica sera. Intanto seguiteci su Twitter all'indirizzo di Voci di Piccola Impresa @VociPMI Radio 24 e su Facebook nella pagina di Voci di Piccola Impresa. Troverete poi online sul sito di Radio 24, la pagina del programma Voci di Impresa, tutte le puntate andate in onda, compresa quella di oggi. Ascoltarle vale mille astuzie. Un saluto da Anna Marino.